sempre, son sicuro crescerò come sempre, al mio fianco resterai. Un istante, una vita in scatola, come sempre, una foto parlerà. Chiudendo gli occhi, scivoli via da me. Chiudendo gli occhi, capirò come sempre, oggi mi accontenterò.